Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'inno sta il più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua in diretta alle 10, 7 primi e 42 secondi, caro ascoltatore di Radio 24. È stato un momento di interrogativo in cui ci guardavamo da una parte all'altra perché c'erano le porte aperte, quindi non sapevo se dovevo andare io a chiudere le porte dello studio oppure, ma sono intervenuti a salvarci le nostre potenti forze senza di cui non andremo in onda, e cui non siamo mai abbastanza grati. Hanno chiuso grati. Il recinto delle belve, caro Oscar, il rischio è che scappiamo. Ma certo, perché infatti per questo tacevamo, perché tutti quanti per istinto volevamo subito buttarci verso le verdi praterie della libertà, e invece eccoci qua. Chiusi. Ed ecco i compari in studio: Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Oscar Gino, che vi dice subito di cosa parliamo oggi, per invitarvi a telefonare all'800240024. Oggi cambiamo un pochino l'ordine della trasmissione, perché il punto dei dati macro italiani e internazionali lo spostiamo dalle 10.30 alle 10.45 con Mario Seminerio, perché all'inizio, visto la disponibilità del nostro ospite, che non poteva se non appunto dalle 10 alle 10.30, parliamo del caso Generali, e dal caso Generali traiamo uno spunto per una riflessione: l'italietà e l'italianità da difendere, gli asset finanziari, ma ha senso fare un grande conglomerato banco assicurativo che il mercato non premia mai come tipo di sinergie, quando invece bisogna migliorare la redditività dei rispettivi business? Che storia è? Una vecchia storia di compimento di un disegno con la testa di Bazzoli, ci può stare storicamente, per così dire, portare in un arco pluridecennale a segno l'ultimo colpo, come se fosse alla Mediobanca, la Mediobanca di Cuccia, oppure invece è tutto sbagliato anche solo parlarne, ed è il senso di un paese raccolto su se stesso, mentre nel frattempo c'è chi ha paura, cioè la politica, di quale presenza straniera sarà imbarcata nell'aumento di capitale di Unicredit, di quei 13 miliardi, e mentre ci sono ancora tanti punti da chiarire su MPS e non solo su MPS. Quindi parliamo da questo, e fateci sapere telefonando, siete favorevoli o meno all'intervento di Banca Intesa in generale. C'è un'italianità da difendere, e ci occupiamo, oltre a questo, quindi se volete telefonare, anche domanda secca: ma Trump, che ci sta mandando un ambasciatore all'Unione Europea che dice che finisce tra pochi mesi l'euro e l'Unione Europea, che dice testualmente il periodo più affascinante della mia vita è quando ho dato una spallata all'Unione, e intendeva l'Unione Sovietica, e ha aggiunto ce n'è un'altra che ha bisogno delle mie cure, l'Unione Europea. Ecco, questo Trump che scommette sul fatto, abbracciando Theresa May, che è solo la prima di una lunga serie, e scommette sul fatto che l'Unione Europea e l'euro salteranno in aria, che tipo di risposte merita? E soprattutto, qual è il futuro che ci aspetta all'indomani del fatto che anche Mediobanca oramai pubblica un suo report? Oramai? Sono anni che sparano queste minchiate loro. Ma poi è una persona in particolare, più che una, loro, no, esatto, Antonio Guglielmi. Esatto. Ma detto questo, avete letto, forse avete letto sui giornali, l'eco, sui siti, l'eco dell'articolo ieri di Nicola Porro in cui rilanciava questo report di Mediobanca. Ne parleremo, è una specie di prezzo fatto sulla finestra temporale oltre la quale non conviene più uscire dall'euro, quindi è un ragionamento un po' paradossalmente non anti-euro ma filo euro, ma comunque fa molto discutere, e discuteremo anche di questo, ma partendo da Trump. E poi, ultima cosa, tenteremo di spiegarvi e di riflettere insieme a voi su cosa siano i PIR, i piani individuali di risparmio, introdotti nel nostro ordinamento con questa legge di bilancio. È uno strumento, sì, che consente belle esenzioni fiscali, in teoria con un nobile scopo, finanziare l'impresa italiana, però attenzione perché ci sono dei rischi da valutare. A questo punto, primo giro d'opinioni, perché il nostro ospite, mi dicono, non è ancora disponibile, lo dico subito poi però chi è: Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Intanto, primo giro d'opinione tra voi, cominciamo a Carlo Alberto. Sei un tifoso tu dell'intervento di Intesa in generale? Io sono un laico che vuole guardare se il progetto industriale regge, e qualche possibilità di reggere ce l'ha. Certo, lo sappiamo che la scelta del momento e dell'occasione è tutt'altro che industriale, ma è politica. Però posso dire una cosa più pop? Ho visto che in Russia non è più reato picchiare la moglie e i figli. Cosa c'entra? Posso dire una roba così, una cosa un po' più social? E devo dire che in generale, come dire, il quadro complessivo mi spaventa un pochino. Cioè, se poi torno a casa e mia moglie mi picchia, cosa succede? Cioè, succede solo che fa bene, ma detto questo, nel tuo caso è una questione di consapevolezza. Ma detto questo, cosa c'entra? No, quindi? Vabbè, posso... cazzeggio pure. No. Senti, intesa generale, è un progetto ovviamente che deve dare una risposta al rischio che ci portino via uno dei gioielli più importanti. Oddio, gioielli. Sì, in generale è comunque un gioiello della reputazione d'Italia, ed è un gioiello che contiene importanti asset. Ed è può anche darsi che sia una scommessa su un modo diverso di distribuire e produrre strumenti finanziari in un contesto europeo che ha bisogno di grande consolidamento. Io non la vedo male. Intesa ha il management per gestire questa transizione. Generali, che è tutt'altro che una cattiva azienda, sia chiaro, ha una massa critica non sempre omogenea nei paesi in cui è presente. Io vorrei proprio vedere questo piano industriale in maniera aperta e chiara, e vorrei giudicarlo sui risultati. Ma visto che Generali è un po' la bella addormentata in Europa, visto che capitalizza molto meno di AXA e di Allianz, pur avendo il blasone, il potenziale per fare assai meglio, vediamo se qualcuno riesce a risvegliarla, insomma, poi che resti in Italia o meno. Siccome in questi giorni la stampa ha detto: pensate, Generali ha in pancia 70 miliardi di BTP, come se fosse un titolo di merito, diciamo. No, ma purtroppo in Italia questo passa. Esatto, no, ho anche sentito dire: cosa succederà? Perché le nostre banche sono state fondamentali nel comprare i nostri titoli di Stato quando c'è stato bisogno. Infatti ci siamo incravattati e incaprettati. Comunque, vabbè, vedo in questi giorni, io noto, come dire, il patriottismo monta man mano che arriviamo al dunque della manovra correttiva chiesta dall'Unione Europea. Per cui di questo ci sarà un po' da ridere. Ecco. Hai visto anche tu il terrore negli occhi del nostro ministro? L'ho visto. Ma non confondete le cose, però. Io vi faccio una domanda, bisogna stare al tema. Sì. Ragazzi, siamo al tema. Voi non mi avete risposto. Come no? Siamo qua a dirti che, in tese generali, qualche base industriale ce la può avere. Scusate un secondo. Allora, partiamo da un presupposto. Banca Intesa, prima, quando arrivava a Messina, imbarcava acqua e perdeva miliardi. Adesso è tornata a distribuire, a promettere cedole per miliardi, troppi secondo me l'hanno, oltre tre, ai suoi azionisti, e sono tra le fondazioni le poche che vedono soldi. Partiamo da questo presupposto, cioè alla domanda: Intesa ha capitale da impiegare in una cosa che è una parte di sesto grado, visto che di solito i grandi conglomerati sì, la risposta è capitale finanziario in eccesso e capitale umano e professionale che ha dimostrato di saper gestire una complessità elevata. Non ho capito qual è il ritorno però di questo utilizzo del capitale per Intesa, perché io su questo ho molti dubbi. Mi avete evocato le giustificazioni politiche, sommiamo la quantità di titoli pubblici detenuti dalle due, che è una perché Intesa sta riducendo l'esposizione ai titoli di Stato. Lo ha dichiarato e lo ha fatto. Da sinistra Intesa direi non mi interessa l'argomento, non so come assolutamente dire. Assolutamente. Sì, però guarda che a guadagnare facendo banca nel modo in cui la stiamo facendo oggi sarà molto dura, quindi allargare la base industriale, questo è un altro argomento, e allargare il portafoglio prodotti. Il mondo assicurativo ha ancora margini grassi, perché ha avuto meno impatto regolatorio rispetto al sistema bancario, ha molti meno problemi, se volete, di situazioni deteriorate, e quindi c'è una redditività. Intesa ha dimostrato al mondo che si può fare banca assicurazione dignitosamente. Intesa Vita è una gran bella realtà, e secondo me ha dimostrato che sono riusciti, tra i pochissimi, questo da dire, a trovare un equilibrio fra banca e assicurazione, che quando crescerà soltanto. Quando Messina dice, secondo me frenando anche un po' l'entusiasmo di Bazzoli, che appunto ha questo grande progetto storico, no? È la ciliegina sulla torta, dopo che Commerciale e così via, dopo che Mediobanca è stato appena mesi fa preso il ciaffone su RCS, quindi levare anche da Mediobanca Generali, lo capisco. Ma detto tutto questo, io se fossi azionista di Intesa direi: vabbè, ma allora Verifichiamo bene se possiamo piuttosto fare qualcosa in Mediobanca in vista della scadenza del suo patto di sindacato, e poi con la sua quota facciamo delle intese industriali. Messina ha detto: non voglio buttare soldi, uno, e secondo me ha ragione l'amministratore delegato d'intesa, B, ci devono essere soldi di ragione industriale. Soldi di ragione industriale sono confinate, per così dire, a intese sulla gestione di asset e risparmio, piuttosto che l'assunzione di controllo di un colosso. I giornali italiani hanno avuto il torto in questi anni di non voler e non saper analizzare, perché accecati dal fatto che Greco, straordinario manager, Greco è stato uno straordinario manager, sì, che dopo aver ereditato una Mediobanca addormentata, utilizzata per i profitti dagli azionisti e comandata la Mediobanca, perché di questo si tratta, in questo Cesare Geronzi aveva, si può pensare quel che si vuole al personaggio, ma aveva perfettamente ragione, Greco è stato fulmine di guerra nell'innalzamento dei coefficienti di solvency, però ha svenduto un mucchio di roba in tutto il mondo. Oggi Generali non è più nell'America Latina, non è più in Centro America, non è più in Messico, non è più negli Stati Uniti, non è più in Giappone, non è più in Israele. In Cina c'era da pioniera 15 anni fa, non hanno un euro da investire e quindi oramai è una presenza residuale rispetto a quello che hanno fatto gli altri. In Francia e Germania è ben al di sotto del 15% in ciascuno dei due mercati. Beh, comunque Oscar, scusate, ma visto che Messina ha detto che faremo l'operazione solo se riusciremo a gestire in maniera efficiente il capitale e a preservare anche la distribuzione di dividendi, che mi pare priorità assoluta per Intesa, per ovvi motivi, se non troveranno la quadra abbandoneranno l'idea? Ecco. Cioè, questa è la domanda. Io, abbandoneranno, se prendo Messina in parola, esatto, anche capisco, perché così, voglio dire, anch'io l'ho capito così, cioè Mediobanca non, mi pare, non che... so se la pensi così, perché sennò non avrebbe congelato il 3% dei diritti di voto, quindi sì, questo è quello che ho capito. Poi scusate, noi stiamo girando intorno a un dito, lo sappiamo tutti, anche se la politica ci dice non è vero, che questa storia nasce per un intervento politico su Intesa, vabbè, cioè, certo, perché il governo a ottobre chiama Intesa e dice: scusate, quindi può avvenire che vengono i francesi cattivoni e voi dovete intervenire. Lo stesso intervento che aveva fatto un mese e mezzo prima, ponendogli lo stesso problema alla stessa banca, alla stessa fonte, tra l'altro, sull'aumento del capitale di Unicredit. Quindi perdonatemi, non facciamo finta di non vedere che c'è la politica che chiede ai privati di mettere a rischio denari una parte sana dell'Italia, perché Intesa è così, e bisogna riconoscere. E del resto, Oscar, quando Profumo, diciamo, venne caldamente consigliato di mangiarsi Capitalia, diciamo, non è che glielo disse la fata del dentino. Speriamo che non si ripeta, la storia esattamente in quella quindi, maniera, insomma, anche se Generali non è Capitalia. È che abbiamo una posizione critica e ci aspettiamo che Messina non butti soldi e non obbedisca alla politica, è così? Sì, esatto. Si critica, ma con una finestra di opportunità, se posso aggiungere. E lui dice: questa finestra di opportunità, non si capisce dove inizi il professore, dove continui il commentatore e dove finisca il consulente. Ta-ta! Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in studio in attesa del nostro ospite che non si manifesta, ma hai capito, caro Alberto? Tu, questa cosa, c'è un margine, ma il margine è quello di rischio, non è quello della possibilità, o no? Perché adesso, dopo che si sono scambiati, insomma, una bordata d'artiglieria, perché questo è quello che ha sparato Mediobanca, i margini per un discorso più composto... anche il carta contro carta, quello su cui si sono cimentati tutti i giornali nel far capire quali potrebbero essere un esborso, diciamo, non troppo oneroso per Intesa, è per Intesa comunque oneroso se si tratta di rilevare il controllo di Generali. Ragazzi, sì, non dovete guardare al mercato, guardiamo al fine. No. L'Italia ha la peggior gestione del proprio capitale finanziario d'Europa, e i numeri ne parlano. Che ci sia l'opportunità di migliorarlo anche solo di poco, consolidando due delle realtà più solide e più apprezzate dagli italiani, a me non sembra così banale e così impossibile. Ti dico solo che Generali, che dopo tanti anni di acquisizione alle nostre spalle, ancora non ha integrato le gestioni e i sistemi operativi dei diversi brand che agiscono sul territorio, RAS e così via. Cioè, capisci? Allora, tu mi dici: facciamolo uno ancora più grande? può essere. La parte Italia di Generali era la più trascurata nei tempi di Greco, e in effetti questo ha mandato a casa due diversi livelli di management. Anche Minali va a casa per questo, il direttore generale. Può essere, io non credo che il gigantismo sia la risposta. E invece sì, invece, da Oscar, te, aspetta, da te mi aspetterei una cosa che dice: no, sono le tecniche di gestione più, esatto, che il gigantismo. Tecnologie, modelli distributivi, legami con i clienti, profilazione del loro comportamento. Noi abbiamo bisogno di un modello di welfare, gestione di risparmio, che deve scollinare il terzo millennio. Stiamo ereditando quello del secolo scorso. Abbiamo, lo sapete, la peggior livello di cultura finanziaria d'Europa. Chi deve fare questa grande opera di educazione, prendere per mano milioni di famiglie? Ma cosa c'entra l'educazione finanziaria con i soldi di Intesa per arrivare al generale? Perché se hai in mente la gestione di un mercato che è tra i più ricchi d'Europa e del mondo, io penso che tu possa tranquillamente concepire la messa in comune di una rete distributiva che a quel punto diventa sicuramente il punto di riferimento e che dovrà cambiare. Oggi abbiamo due modelli distributivi completamente diversi che non tengono conto, per esempio, dell'arrivo delle tecnologie. Parlo della rete di filiali di Generali e quella di Intesa, che sicuramente meritano sinergie e ristrutturazioni. Comunque, sinergie e ristrutturazioni, però Generali usa agenti e Intesa no. Intesa no. Quindi, cioè, stiamo proprio parlando di modelli completamente, come dire, abbastanza impervio e problematico. Qualche nodo da sciogliere ci sarebbe. Molti nodi da sciogliere, sono d'accordo con te. Ma questa è la grande sfida industriale. Ce la faranno a trovare una sintesi nel rapporto col mercato diversa da quella ottocentesca? Se ci riescono, fanno una cosa innovativa e importante. Comunque, la cosa più divertente sarà quando Intesa, se mai dovesse riuscire a prendere Generali, venderà gli asset tedeschi ad Allianz e saremo qui a parlare dell'italianità tutti, infatti, assieme appassionatamente. Infatti, il sottinteso tra Mediobanca e Intesa è esattamente quello che la politica ha chiamato Intesa dicendo: perché a Generali non è amico dei francesi? E Mediobanca risponde: eh già, e voi mobilitate Intesa che è amica dei tedeschi. Esatto. Naturalmente, detto tutto questo, più un eventuale merger diventa gigantesco, più i problemi di cedere bocconi agli altri è inevitabile e conseguente. E questo, tra l'altro, lo sottopongo anche all'attenzione del nostro amico filo acquisizione Filobus, traduco così. Sì, Carlo Alberto. Sì, quando devi cedere degli asset, cedi degli asset che, allora, ritieni che non possono andare a sinergia. Amici, sta, Francesco Boccia, abbiamo cambiato anche l'ordine della trasmissione, ma ha avuto un impegno, così ci dicono. Peccato, perché avrei voluto chiedere cosa ne pensa lui, cosa pensa della neo nascente commissione parlamentare d'inchiesta sul capitalismo italiano. Sul capitalismo italiano, beh, neanche sulle basi programma. Verita di essere messo sotto inchiesta. Sono d'accordo con Francesco Boccia. Sì, questo capitalismo deve essere comportato. Io dirò due parole che, siccome mi pare ma che capitalismo, ma cosa mi combini? Basti programmi sapendo che poi vanno a votare, quindi non si va da nessuna parte. È come le liste dei clienti. Avete visto che si è subito scatenata a Siena la possibilità di fare una lista emendata? Perso questa cosa. Sì, confesso di sì, anche perché con Siena, diciamo, bisogna sempre tenere il passo, altrimenti è sempre troppo avanti con la fantascienza e la beh, fiction. Ma non si finisce mai. E no, però, esatto, vi chiedo, le avete viste le 10 proposte della commissione? Adesso, io quando ho visto la commissione Tabacci mi sono un po', con tutto rispetto per Tabacci, la commissione per la semplificazione e trasparenza ha fatto queste 10 proposte, e stiamo parlando sempre di trasparenza, efficienza in materia bancaria. Vi dirò che queste 10 proposte magari fossero adottate. Non so, hai avuto tempo, Carlo Alberto, di vederle? No, non ancora, ti confesso. Comunque è chiaro che elenco i titoli. Vi elenco, sì, i titoli. Sì. Semplificare i prospetti informativi. Uno, questo è il primo capitolo. Okay. Due, i prodotti finanziari devono essere comparabili per aumentare la chiarezza dell'offerta. Mm-hmm. Due, tre, più digitale contro la burocrazia. Pensa un po'. Strumenti digitali sono importanti, devono diventare fondamentale veicolo di trasparenza e semplificazione. Quattro, valorizzare la consulenza. Che diventa soprattutto quella indipendente, magari, no? Esatto. Anziché tenerla soffocata e cercare di ucciderla nella culla da anni. Questo, naturalmente, nella parte in questo quarto punto si nota ancora una volta invece l'influenza non proprio della consulenza indipendente, perché si dice che il fine deve essere quello che gli interessi delle due parti coincidano. Sarà facile. Sarà facilissimo. Capisci? Ci capisci subito un approccio irenico che non è quello della consulenza indipendente, che nasce proprio dal fatto che dice: guarda, gli interessi sono diversi, ma dobbiamo lavorare perché tu abbia dei consigli terzi. Quinto, più peso a obbligazionisti e correntisti. E beh, giustamente, secondo me questa è una cosa giusta. No, ma loro dicono, l'interessante è che dicono in linea, siccome c'è il bail-in, cioè non partono dalla contestazione, il bail-in è sbagliato, invece no tutte le siccome c'è il bail-in, se io devo pagare devo poter contare, quindi un'assemblea dei bondholders e un loro coinvolgimento sulla governance è più che ragionevole. Così diventano azionisti strada facendo. A loro insaputa. Esatto. Numero 6, puntare sul leasing. Questa è una forma di finanziarizzazione degli asset importante. Io trovo che sia intelligente come discorso. Esatto. Numero 7, evviva! Quello che è una delle radici del problema dei crediti deteriorati italiani, il numero 7, cioè migliorare la profilatura dei clienti. Vedi che parlavamo prima di una integrazione. Quando tu riesci a ricostruire il profilo finanziario e quello assicurativo di una famiglia, fai un buon lavoro dal mio punto di vista. In questo senso dico, guardiamo al mercato e non soltanto agli assetti organizzativi interni. Numero 8, vigilanza. No, la parola vigilanza mi sconvolge. Aumentare il coordinamento fra le autorità. Ah, perché? Non si parlano. Esatto. Non vanno d'accordo. Hanno le autorità competenti a livello italiano e a livello addirittura europeo, no? Trovando un minimo comune denominatore, io direi, scusate, il minimo comune denominatore è uno, direi un minimo comune multiplo al massimo, un massimo comune, perché non si ricordano neanche le basi di algebra i nostri amici della commissione. Numero 9, educazione finanziaria sulla RAI, questa posso dire che è una boiata pazzesca, sì, una boiata grazie, pazzesca, sì, esatto, cioè... perché l'idea che la RAI faccia educazione finanziaria, no, perché educazione finanziaria dice bene, poi dice sulla RAI ecco, questa è la mia reazione. Dopodiché potenziare il ruolo del Parlamento, sempre, questo è incomprensibile. Vabbè, questo è un lip service. No, però posso dire, il tema di fondo è la simmetria informativa, che secondo me la Commissione, al di là di un po' della legittima presa in giro, la Commissione ha correttamente indirizzato come il vero problema. Abbiamo bisogno di mettere a disposizione molte più informazioni e gli strumenti per interpretarle nelle mani dei risparmiatori e degli investitori. Questo secondo me è il nucleo fondamentale della Commissione Tabacci e devo dire, chapeau, è una cosa bella e giusta. Non sono i patti chiari che tanto chiari non sono. Sono un patto di trasparenza informativa sistematico con un'autorità che finalmente non gioca dalla parte di chi vende, ma gioca dalla parte di chi compra. Se c'è una cosa che continua a colpirmi, vediamo se qualche accademico di voi lo farà, perché se lo fa un giornalista naturalmente poi si dice che non va bene come libro, è il fatto che a distanza di tanti anni, dal 2011, dopo che è cambiato il quadro della regola europea, è entrata in vigore, siamo passati per le banche risolte, stiamo affrontando il nodo MPS, delle due vendite, eccetera, eccetera, non ci sia ancora una riflessione, al di là della polemica giornalistica, seria, che faccia un bilancio di come sono state esercitate le competenze dei regolatori su queste vicende italiane del post 2008, ma 2011 in poi. C'è un bilancio serio, poteri attribuiti alla Consob e alla Banca d'Italia, come sono stati esercitati, come di fatto sono mutati nel tempo rispetto a quello che in teoria dovrebbe essere, e anche a una prima luce delle risultanze delle indagini penali in corso. Secondo me sarebbe una bella riflessione da fare. Dico seria, non come le fa... Ho visto che in televisione con la notte di... No, ecco, no? Mi hai saputo, Oscar. No, ma lo dico, voglio dire... Ma poi io non contesto, la notte è libero in televisione di dire quello che vuole. No, non è libero di fare accuse non documentate. No, se non ti dispiace, non è libero di farlo, io sono libero di dirgli che sta dicendo delle stupidaggini. Di pensare quello che vuole. Sto dicendo che però, in mancanza di una riflessione seria, noi abbiamo un buco terribile che riguarda i rapporti tra... Primo la politica, cioè il legislatore, che non è in grado di, dice che non è in grado di capire le decisioni che assume. Perché io ho letto questo, che anche a fronte di interventi come sulle quattro banche risolte, chi l'ha votato ha detto poi nei mesi successivi non avevamo capito. No, esatto. Ma questo è il famoso metodo Di Maio. Esatto. Cioè, non ho visto la mail e non l'ho capita. Uno, politici, due regolatori, tre magistratura. Quattro è il rapporto con poi chi c'ha i soldini impegnati nelle banche, i depositanti, gli azionisti, gli obbligazionisti, secondo me ha bisogno di una riflessione di questo tipo. Devo dire non mando propriamente un abbraccio a Francesco Boccia, che ci ha fatto aspettare invano il suo prezioso parere, ci sentiamo tra un minuto. Aspetterà qualche altro anno, cosa vuoi che ti dica? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua, è un po' quello che ci dice la Commissione Europea sulla legge di bilancio 2017, caro e Mario. Qualcuno si spaventa, e qualcuno si... Non so veramente, Mario, la faccia del ministro Padoan ieri intervistato in TV mi sembrava è abbastanza, come dire, terrea, esatto. Funerea. Sì, sì, sarebbe un grosso problema l'apertura. Secondo me l'hanno spettinato per bene. Di una procedura di infrazione. Ma infatti, scusate, però adesso io credo che Padoan abbia per oltre 3 anni svolto il ruolo di parafulmine di Renzi in Europa. Questo mi pare abbastanza palese. Cioè, Padoan ha fornito prima la copertura di competenza tecnica, certo, diciamo, di storia personale, di prestigio nei confronti delle istituzioni economiche globali, eccetera. Dopodiché ha avallato a alcune decisioni di Renzi nel corso delle ultime 3 leggi di stabilità che erano quantomeno opinabili. È chiaro che adesso i conti devono tornare e i nodi devono arrivare al pettine. Per cui, sinceramente, non è che io riesca a provare, come dire, grande empatia e grande solidarietà per il ministro Padoan. Cioè, lui ha scelto deliberatamente di svolgere questo ruolo di copertura politica a quelle che sono state per 3 lunghi anni e per 3 leggi di stabilità, 3 leggi finanziarie... l'utilizzo disinvolto del deficit da parte di Renzi, cioè praticamente spendendo in maniera inefficace ed inefficiente. E questo lo diciamo noi nel nostro piccolissimo, lo stiamo dicendo da quando è iniziata tutta questa manfrina. Io ribadisco quello che dicevo all'inizio della trasmissione. Sono, come dire, abbastanza mosso a compassione, mi fanno tenerezza tutte queste trasmissioni, questi talk, dove anche i commenti dei telegiornali, dove si dice: ma questa scarsa sensibilità di chiedere all'Italia una manovra correttiva, ma non avete proprio cuore! Ragazzi, tornate in voi, però, no, tornate, Mario, in voi. Mario, se pensi al fatto che ci hanno chiesto lo 0,2% di correzione, e lo troveranno, è un fatto troveranno. Ma è un fatto simbolico, come dire, non vi chiediamo un grande, vi chiediamo però di cambiare tono, di cambiare atteggiamento. Secondo me questa è la connotazione politica vera. Ma soprattutto vi chiediamo di destinare in maniera inequivocabile e documentata e documentabile, cioè vogliamo gli scontrini, per dirla con un prestigioso movimento di intellettuali italiani che ha fatto politica da qualche anno, vi chiediamo di documentare lo sforzo a favore dei migranti e della ricostruzione. Cioè, detto in soldoni, vorremmo che la piantaste di fare come avete fatto in passato, quando volevate ridurre l'IRAP con i soldi della flessibilità sull'immigrazione, perché è vero che questo è un paese che ha la memoria del pesce rosso, per cui nessuno se le ricorda più queste cose. Io però personalmente, nel mio piccolissimo, me le ricordo, e mi ricordo anche le frasi del ministro Padoan 2 anni fa, per cui, no, ridurremo l'IRAP, e può venire comoda l'idea della flessibilità sugli immigrati, perché abbiamo da ridurre l'IRAP. Allora, cerchiamo di farci un nodo al fazzoletto, perché ogni volta c'è questa sorta di psicodramma collettivo nel paese del melodramma. Oddio, ci stanno scuoiando vivi, siete senza cuore e abbracciamo le creature. Cioè, scusate, però, ma bisognerebbe avere un approccio un po' più sobrio. Però il problema è che questo approccio non ce l'ha quasi più nessuno, e noi tra un po' ce ne andiamo nelle cantine. Questo è il punto, perché non ce l'ha l'informazione che insegue la pancia del paese, pettinata e sempre più proclive ad assecondare chi in politica gli dice che sono regole fatte solo a comodo degli altri e applicate solo a noi, dimenticando che noi abbiamo avuto il massimo applicazione della flessibilità negli anni di Renzi, perché questo è il punto vero, 1.9 di PIL, la differenza tra il l'obiettivo di deficit pubblico del 2017 posto dal governo nella legge di bilancio rispetto a quello del primo DEF quando nacque il governo. Però tutte queste cose qua io inizio a pensare che noi le diciamo, però è proprio una predica nel nulla. Per esempio Padoan ieri ha di fatto quella dichiarazione, tutti hanno avuto l'ordine di riprendere, come avviene sui giornali di oggi, basta vedere il rilievo nella gerarchia della notizia. Gentiloni, che sentito Renzi, ha detto no a manovre depressive. Quindi la linea è: dobbiamo andare a votare a giugno, come non lo so, dopo la sentenza della Corte. Però avete visto il giornale di oggi, anche lì Renzi ha piazzato Corriere, Repubblica, eccetera, con due pagine: si va a votare a giugno e Gentiloni obbedisce. Allora, l'aria è questa, e infatti i giornali si adeguano e la politica si adegua. Gentiloni si è adeguato. Che importa più oramai se l'Unione Europea ha delle regole? Conta altro. Io questo è un po' la cosa di fondo che mi arriva, non so come la pensi Carlo Alberto, cioè questo fatto, che è un fatto che dovrebbe essere uno stato molto importante, viene derubricato, tanto non avranno, fanno la procedura di infrazione, chi se ne frega, noi nel frattempo dobbiamo votare, prendere i voti. Ma come, la Commissione Europea non capisce che anche Mediobanca dice che deve saltare l'euro? Dai, mi aspetto. Vabbè, sì, questo sarà il prossimo passaggio, magari, diciamo. Stare, ma lo spread non possiamo ignorarlo, è il fatto che il governo italiano debba rifinanziare un debito colossale, non possiamo dimenticarlo. E Padoan, anche queste cose le sa, si rende conto di cosa vuol dire il prezzo di una procedura di infrazione sui ratings e sul fatto che siamo sull'orlo del baratro. Saranno anche, come dire, legittimate le richieste di chi vuole votare a giugno, ma per fortuna, per la prima volta vedo un Padoan che ritorna nel suo ruolo di garante internazionale dei numeri. E io sinceramente devo dire, in questo caso non ho un'obiezione da fare al suo commento di ieri, cioè sta cercando di far ragionare le forze politiche italiane sul fatto che quella procedura di infrazione costerebbe a questo paese tantissimo, cosa che invece in termini di costo di rifinanziamento del debito, sono soldi che noi spendiamo in più per anni, determinati dal fatto che giustamente i mercati non credono alle promesse che facciamo. E poi qui è in esaurimento, e anzi la parte più interessante per me, appunto, quel report Mediobanca che cito sempre, è il fatto che c'è un calcolo che dimostra come di mese in mese anche l'apporto positivo del QI, che comunque andrà a esaurirsi, in realtà si azzera per quello che perdiamo di mese in mese sui derivati del tesoro, quindi neanche qui in realtà. Però in realtà guarda che se paradossalmente spieghiamo anche questa cosa, se i tassi, i rendimenti di mercato salissero, noi avremmo una riduzione della perdita sui derivati del tesoro, perché sono stati costruiti, diciamo, per un altro scenario completamente diverso, e quindi hanno passato lunghi anni a soffrire col mark to market, diciamo. Quindi paradossalmente avremmo sofferenze di altro tipo. Però ricordiamo anche a chi ci ascolta, oltre che a noi stessi, visto che siamo in modalità pesce rosso a lezione, che abbiamo 18-19 miliardi di clausole di salvaguardia sul 2018 e altrettante sul 2019. Posso che spiegarti? Che abbiamo continuato a riportare a nuovo. Ma per questo Renzi vuole votare subito. Ho capito, dopodiché cosa fa, se la smazza lui? Si fa finta di non avercele, perché la politica è così. Però, poi proprio col proporzionale a mani libere regalatoci dall'insipienza dei politici che ogni volta si fanno bocciare dalla Corte. Però scusami, tu sai bene che lui ha passato, come dire, 6 o 7 mesi congelando il paese per il referendum. Adesso se dobbiamo fare la stessa identica cosa in vista delle elezioni politiche che magari saranno nella primavera del 2018, il paese marcisce dalle fondamenta. Perché dobbiamo ricordare che nel frattempo questa sottoperformance di mancata crescita è una specificità italiana nell'Unione Europea e in Eurozona, ricordiamola questa cosa. Non è un problema di austerità e di minchiate del genere, è l'Italia che, visto che ha avuto negli ultimi 3 anni una politica economica risibile, con enorme spreco di deficit e di qualità della spesa pubblica, ora si trova per l'ennesima volta ad arrancare. Questo è specifico all'Italia. Sì, e fammi dire che non è nemmeno specifico alle imprese che esportano, che invece stanno andando bene. Quindi c'è anche un tema proprio del mercato interno, di mancate riforme della domanda interna, di un uso inefficiente e inefficace, sono d'accordo con te, della spesa pubblica, non tanto del suo livello, proprio della sua composizione, perché l'Italia, che è interfacciata con i mercati mondiali, non va così male, dirlo. Esatto. Non va così male, è tutto tutto sommato ha accolto quel refolo di ripresa che c'è in giro per il mondo, lo ha accolto bene e si sta comportando bene in termini di competitività. È l'intera, la pancia molle del paese, caro Mario, che non sta reagendo assolutamente. Però adesso abbiate fede e fiducia, perché Trump metterà un dazio del 20% a tutti i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit commerciale bilaterale, e l'Italia è in 110. Cima alla lista. Sono 110, per cui alla fine, ho visto che anche in Italia si sta sviluppando un movimento filo Trump, diciamo, che ne sposa le ricette di politica economica. Noi siamo un paese esportatore con eccellenti risultati bilaterali negli Stati Uniti. Ho visto che c'è avuto un attrito televisivo. Sì, ho avuto un attrito televisivo semplicemente perché, avendo chiuso il circo Barnum, alcuni del personale si è riversato altrove. Ecco, purtroppo quello è un caso di ingenuità, forti, Mario, di conduttori. Sono forti, Mario, questi qua che predicano il protezionismo di Trump e poi vogliono la svalutazione per esportare di più. Assolutamente. Allora, c'è un piccolo problema di contraddizione logica. Come faccio a esportare di più in un paese al quale sto appena chiedendo di alzare i dazi nei miei confronti? Scusate, c'è un report di Mediobanca che giustifica anche questo, per caso? No, magari lo diciamo a Nicola Porro e lui ci fa uno scoop in prima pagina. Nel report di Mediobanca in prima pagina c'è una delle premesse, cioè la correlazione assolutamente ferrea tra la produttività e il cambio. Mi sono preso la pancia e mi sono piegato in due, perché ragazzi, se è questo, viva, meno male che io non ho studiato abbastanza, perché almeno così resto con le mie convinzioni un po' più solide, tanto per dirne una. Quindi questo per testimoniare come gli argomenti seri, voi invocate gli argomenti seri, è un mondo in cui Trump Brexit accelera l'irragionevolezza degli argomenti ragionevoli, non so se è evidente, cioè oggi nessuno, tant'è che i mercati iniziano a frenare adesso, al di là del Dow a 20.000 punti, che non vorrei molto importante, sì. Ma insomma, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista economia reale, vorrei precisare, l'irragionevolezza di Trump è relativa, perché qualche interpretazione dell'interesse degli Stati Uniti c'è, magari certo, discutibile, ma c'è. L'irragionevolezza dei trumpisti italiani è inaccettabile, è veramente esilarante, perché qui stiamo parlando proprio di illogicità totale. Uno può essere più o meno d'accordo sulle scelte di Trump di usare la leva fiscale e la leva tariffaria per consolidare il deficit commerciale degli Stati Uniti. Può essere giusto o sbagliato, ma quantomeno ha una logica dell'interesse nazionale. Ma i nostri trumpisti di che cosa stanno parlando? Logica e basta. Però guardate, in questo mondo nuovo bisogna essere pronti a ragionare su schemi laterali rispetto a quello che a noi appare la razionalità. Io ne me ne convinco sempre di più. Vi ricordo che sono 20 anni esatti da un aureo libretto che scrisse Martin Feldstein, che vi invito a rileggere, cari ascoltatori, perché tutto quello che c'è scritto in quel libro si è assolutamente compiuto sull'euro, l'Europa e i mercati internazionali, ed era un libro non contro l'euro ma pieno di critiche, perché dice: se pensate di fare la moneta invece che fare l'unione dei mercati, beni, servizi e del lavoro sottostante, siete dei matti, perché pagherete un prezzo elevatissimo. Siete libero di farle, perché questa era la cosa, non è che dicesse pazzi, siete liberi di farlo, sappiate che è così, e questa cosa vi porterà a uno scenario di conflitto interno violento. 20 anni dopo direi che Martin Feldstein aveva ragione. Il problema è che il quadro di un'energica affermazione di abbastanza imprevedibile articolazione di politiche concrete che derivano dall'affermazione così imperiosa di America First espone un paese debole come il nostro ancora di più. Questa è la mia, purtroppo, sensazione, e credo che non sarà la ragionevolezza la scelta più facilmente imboccata. Renzi intende andare a votare a qualunque costo, non gliene importa nulla dei prezzi da pagare, cioè la lezione del referendum non è servita a niente. Il suo partito è spaccato verticalmente, vedremo se la ragionevolezza prevale oppure no. Dall'altra parte c'è una frattura altrettanto verticale a destra tra chi oggi a Roma si raccoglie in piazza, che è dell'idea massimo caos possibile, meglio per tutti, per essere chiari, perché la scelta sovranista, legittimamente dal suo punto di vista, dice: solo in un grande caos l'Italia può liberarsi le mani anch'essa, per fare che, si vede dopo, ma liberarsi le mani da regole imposte da altri. Questo è quello che pensano loro, e sono tanti, io lo vedo dai nostri ascoltatori. Dopodiché il terzo polo italiano è quello che conoscete. Ecco, questa è la situazione che abbiamo di fronte. Voi dite soluzioni razionali. Mondialmente mi pare oggi più difficile, cioè sono imprevisti con conseguenze inintenzionali, Ma io, cioè, io la mia idea me la sono fatta, cioè questo è un paese che sta andando a spappolarsi. Quindi ci potrà essere okay. in mezzo un sacco di elucubrazioni segmentali, riunioni, tanto poi l'esito è quello. Mi auguro ancora che sia evitabile. Ma anch'io mi auguro che sia evitabile. Però tutto quello che vedo anche a livello di stampa, di dibattito pubblico e di discorso pubblico mi porta inequivocabilmente in quella direzione. Poi non diciamo che non c'è cultura economica, non c'è alfabetizzazione finanziaria, ma infatti lo vediamo quotidianamente nell'elaborazione politica. Traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua, tornati in diretta con i compari schierati in studio insieme a Oscar, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, caro Alberto e caro Mario, riprendiamo il discorso un secondo che abbiamo iniziato ponendoci quella domanda generali intesa Mediobanca, Unicredit. Insomma, diceva Carlo Alberto, ma no, in realtà bisogna una finestra d'apertura, c'è per la manovra di intesa su generali, perché insomma, in palio c'è un quarto del risparmio gestito degli italiani, che non è proprio una cosetta, ed è molto da perfezionare come efficienza, trasparenza, certo, è questo il punto, no? Certo. Allora, a cavallo, cioè, del tema che, come vedete, è solidamente incardinato alle intenzioni dichiarate di chi, come Carlo Alberto, vuole che intesa prenda i generali, e l'interrogativo ci porremo alla fine della trasmissione, ma convengono i PIR, cioè i piani individuali di risparmio o meno, la domanda è proprio: che cosa ci possiamo aspettare dalle nuove tecniche che rendano più trasparente e efficiente la gestione del risparmio degli italiani? E quindi ci siamo detti, chiamiamo uno di coloro che esattamente ha iniziato a lavorare da anni su questa prospettiva, e quindi è con noi il ministero delegato di Moneyfarm Paolo Galvani, che ringrazio di essere con noi. Buon sabato mattina. Buongiorno e grazie di avermi chiamato. Allora, quando si evoca la parola fintech, ci sono tre tipi di reazioni a seconda del tipo di convegno. Se è un convegno fatto dai sindacati bancari, voi siete la specie di incarnazione di un videogioco tecnico al quale bisogna levare la corrente elettrica, perché più andate avanti voi, più gli interessi dei sindacati perdono. Uno. Due. Se invece è un cliente organizzato dall'associazione del consumo del mondo del risparmio e del bancario, voi siete l'alternativa impossibile, ma quella che tutti sperano dopo aver descritto incidenti nei rapporti con chi fa il frontale nelle banche, in chi gestisce il risparmio verso il cliente. Terzo, le cose che più piacciono a noi, invece un convegno in cui si affronta seriamente la questione di che cosa può venire dalle tecnologie, perché quella robetta che conta più dei crediti deteriorati, esattamente come la crescita conta più solo il deficit annuale per ridurre il debito pubblico, esattamente è quella robetta che conta tanto e che di cui nessuno si occupa è il ROE, cioè la redditività, che è bassissima nelle banche. E il problema è che voi servite soprattutto a questo. Fatta questa premessa, se io le dicessi che spero più in lei che in quello che ha detto Carlo Alberto sull'intesa generale, così almeno la provoco un po', perché Carlo Alberto mi sta guardando e sta zitto. Di solito è Carlo Alberto che, quando parliamo di fintech, si scatena. Il problema è che l'ho inchiodato su questa posizione di essere il difensore di intesa generale oggi. Un giovane balzoniano, l'ha detto, cari ascoltatori, l'ha detto, è un giovane balzoniano. No, al di là di tutto, Galvani, se lei dovesse darci un giudizio, le banche italiane nel complesso, ci metto anche le migliori, ma penso soprattutto al corpo medio di chi ha problemi, pur non avendo problemi di sostenibilità tragici, però ha problemi serissimi di redditività, hanno capito che cosa le nuove tecniche di cui vi occupate voi possono portare nel loro mondo organizzativo e gestionale? Poi le dico cosa penso io, ma lei ci dica sinceramente, l'hanno capito? Secondo me adesso sì, oggi sì. Quando abbiamo iniziato Moneyfarm, parte nel 2011, devo dire che insomma, per un primo periodo non abbiamo trovato grande apertura nella tranne rarissimi casi. Ha riso perché si rendeva conto che l'espressione che usava era troppo gentilmente perifrastica, non avete trovato quella apertura. Vi incinava dall'altra parte, cioè, poveri illusi. Ecco, diciamo, questo. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Devo dire che poi, insomma, negli ultimi 2 o 3 anni la conversazione ha incominciato a prendere altre dimensioni e sempre più i temi che noi affrontiamo sono considerati dalle banche. Poi il fatto che questo significa che poi vengono anche implementati è un altro paio di maniche. Però io adesso le chiedo, in 30 secondi ci dice i 3 titoli più importanti di ciò di cui parlate con le banche e poi ce li spiega però dopo il Generale Radio, cioè le 3 cose di fondo da cui le banche devono capire che siete all'autostrada, adesso non so se sono buoni fare, ma insomma questa impostazione del fintech sono? Ma allora direi che il punto principale è che è solo attraverso la tecnologia che si riesce ad arrivare a un vastissimo numero di clienti in modo molto professionale, molto di qualità, allo stesso tempo controllando una struttura di costi che diventa indispensabile. Visto che il cost income è esattamente... Il segnale orario vi è offerto da... Legno Edilizia, Fiera di Verona, dal 9 al 12 febbraio. Della belva. E rieccoci qui, tornati in diretta ai Conti della Belva con i compari qua in studio oltre a me. Mario Seminerio. E Carlo Alberto Carnevale Maffè. Ed è rimasto collegato, lo ringraziamo per questo, Paolo Galvani, amministratore delegato di Monifarm. E i nostri ascoltatori ci chiedevano nel frattempo, dopo aver sentito il primo punto sintetico con cui ci siamo salutati prima del Generale Radio, in cui diceva qual è il vero impatto, però i nostri ascoltatori ci chiedono di fare un passo indietro, cioè ci chiedono di sapere da parte sua, in realtà concretamente, voi al cliente, sia un risparmiatore, sia di taglia più elevata, sia una piccola impresa, una media impresa che vuole consigli sul proprio portafoglio, i propri investimenti, che cosa offrite? Con quali strumenti, con che interfaccia e con che costi? Sì, ma detto in modo sintetico, quello che fa Monifarm è di fatto un'attività di consulenza finanziaria, quindi aiutiamo piccoli e medi risparmiatori ad individuare nel miglior modo possibile quello che può essere una soluzione di investimento, facendolo però in modo centralizzato sull'attività di consulenza, no? E non di vendita, che è una cosa importante. Certo. E quindi attraverso la tecnologia cosa riusciamo a ottenere? Beh, per prima cosa riusciamo a identificare in maniera abbastanza precisa il profilo di rischio della persona che ci parla e dopodiché associamo a questo profilo di rischio e ai suoi obiettivi una soluzione di investimento. Come è fatta questa soluzione di investimento? Beh, è costruita attraverso dei portafogli di ETF che sono di fatto dei fondi passivi a bassissimo costo e che replicano gli andamenti di diversi indici obbligazionari e azionari. Il tutto, come dicevo prima, attraverso una proposizione che è di indipendenza e quindi noi siamo pagati per la consulenza che offriamo e non per i prodotti che vendiamo, che sembra banale dal punto di vista del servizio, ma in realtà nel mondo della finanza banale non è, perché invece il meccanismo funziona nella gran parte dei casi attraverso la vendita, no? E non nella consulenza. Quindi Paolo, se posso, sono Carlo Alberto, la tecnologia aiuta a fare che cosa? Diversificazione, cioè di avere un portafoglio meglio distribuito a bassi costi, e parliamo quindi di ETF, ad abbassare i costi di gestione e ad aumentare la durata dell'orizzonte temporale nel quale gli investimenti vengono svolti. Diversificazione e lungimiranza degli investimenti sono i 2 vettori che possono migliorare i rendimenti, ovviamente, nel senso che vanno ovviamente a incidere sia sul lato dei costi, molto importante, sia sul lato delle opportunità di investimento. A questo serve la tecnologia, ad abbassare i costi e a migliorare la profilazione del cliente. Possiamo dire che questa è la sintesi, oltre al principio dell'indipendenza, cioè non chi fa il consulente indipendente non è pagato da chi vende, ma è remunerato sulla base dei risultati che ottiene da chi investe. Sì, aggiungerei un altro elemento molto importante, che è quello che attraverso la tecnologia tu riesci a portare una soluzione come quella che noi offriamo, che di fatto è un'associazione di grande qualità finanziaria, indifferentemente dall'ammontare di investimento sottostante. E quindi la tecnologia permette di arrivare all'investitore da poche centinaia di euro come all'investitore con dimensioni ben più grandi, in maniera indistinta. Ed è questo uno degli altri grandi vantaggi, no? Perché se tu invece trasformi il modello, facciamo noi, in un modello più fisico, evidentemente c'è un problema di dimensione da parte del consulente, ovvero sia clienti troppo piccoli di fatto non sono sufficientemente redditizi, nel modo corretto del termine, per essere poi seguiti in maniera costante da un consulente. Quindi le basse commissioni consentono anche a chi pochi risparmi, poche migliaia di euro, poche decine di migliaia di euro, di avere accesso a strumenti finanziari che normalmente sono riservati invece a investitori molto più grandi. E questo consente di educare, in questo senso era la provocazione di invitarti, no? Invitare tutti gli italiani, anche con un profilo, se volete, iniziale, proprio di apprendimento, ad avvicinarsi a queste tecnologie che hanno un vantaggio importante, al di là di rendimenti diciamo in linea col mercato, offrono occasioni straordinarie di educazione finanziaria. Uno capisce se stesso perché riceve una profilazione molto accurata e capisce come funzionano i mercati. Io trovo che questo sia molto meglio che mandare in Rai le comunicazioni, sia la strada giusta per l'educazione. In questo senso posso chiedere Paolo se Moneyfarm è anche uno strumento di autoeducazione al risparmio e agli investimenti? Cosa fa il vostro risparmiatore? Beh, allora, il tema dell'educazione finanziaria, insomma, è centrale, no? Una grossa parte delle nostre energie va proprio nella direzione della creazione di contenuti e nella spiegazione, che è fatta in due modi. Cioè, da un lato noi produciamo un sacco di contenuti e di documenti e di cose che si possono leggere, però è anche la quantità di informazioni che poi diamo ai nostri clienti, no? E la tecnologia, ecco, un'altra delle cose che ti aiuta a fare, ti permette di fare questa comunicazione in maniera molto veloce, molto dinamica e di tenere quindi molto aggiornati i tuoi clienti, che faccio un esempio, in casi particolari, la Brexit piuttosto che non l'elezione di Trump, ricevono informazioni quasi in tempo reale, che non significa che noi modifichiamo gli investimenti in funzione di questi eventi, ma significa che li tranquillizziamo. Ecco, gestite l'emotività, che è un elemento importantissimo, perché evitate che la gente esca quando c'è la fuga complessiva e rientri quando c'è il picco degli investimenti. Questo è un tema importante perché consente di spalmare molto meglio il profilo di rischio del cliente rispetto all'andamento del mercato. Questo lavoro di educazione continua, ecco, mediamente noi contattiamo la nostra banca, non so, poche volte all'anno. Io ricevo informazioni da voi mediamente una o due volte alla settimana e tempestivamente, nell'ordine di ore, ogni volta che c'è un fenomeno importante, appunto, per esempio una notizia politica, un cambiamento significativo, voi intervenite in pochi minuti, in poche ore. Questo è il tipo di dialogo che avete in mente quando parlate di tecnologia e finanza? Sì, è esattamente questo. Cioè, di fatto, tu riesci a stare molto vicino al tuo cliente, al tuo risparmiatore, con questo tipo di modalità, facendo in modo, e tu l'hai detto proprio bene, di gestire l'emotività, no? Perché di fatto, una volta che tu hai costruito in maniera corretta e pertinente l'investimento, il portafoglio, è molto importante poi che l'emotività non abbia il sopravvento e che quindi ti faccia fare delle cose che sono sbagliate e che sono guidate soltanto dall'ansia o il timore. Insomma, la sintesi è meno amigdala e più corteccia prefrontale, intese come le parti del cervello che presiedono con l'amigdala alle reazioni istintive, paure, emotive, eccetera, e invece corteccia prefrontale, sia pure allocata diversamente tra uomini e donne, perché è così, non sembra una battuta razzista, ma è esattamente quello che ci spiegano e ci indicano le nuove frontiere della neurobiologia. E quindi Moneyfarm serve esattamente a questo. Bene, noi continueremo le nostre trasmissioni a puntare su queste nuove tecnologie e modalità per avere consulenza il più possibile terza, autonoma e indipendente a tutti voi. Io resto convinto che servono, caro Alberto, più queste cose che i maxi aggregati intesa generale con la scusa del risparmio, che hanno tutt'altra motivazione. Ti invito a riflettere a una cosa sorprendente che ha detto ieri Messina, che pure è l'amministratore delegato intesa, una persona che stimo molto rispetto ad altri, e che ha detto: questa cosa che non capisco è molto stupida, che le fondazioni devono scendere nel capitale delle banche. E ho detto: anche i migliori quando hanno azionisti di quel tipo alle spalle, diventano purtroppo un po' zoppi. Gentile omaggio ai grandi ispiratori. Non è un gentile omaggio. Io diffido dei grandi conglomerati in Italia quando le logiche sono quelle. Su, è una storia vecchia. Beh, finché ci sono persone come Paolo che morsicano le chiappe dei grandi conglomerati, io sono contento. Abbiamo bisogno di persone come appunto Paolo Galvani e tutti quelli che lavorano in Money Farm. Intanto grazie e una telefonata al volo. Marco da Roma. Sì, buongiorno. Oscar, grazie della possibilità. Sì. Volevo chiederti, scusa se ti do del tuo. Prego. Volevo mettere insieme globalizzazione, assalto a generali, diciamo muri o eventualmente protezionismo, no? Che quindi fine della globalizzazione, non è che contraddice, è la fine di una lunga fase. Nel senso, è giusto che chiunque possa comprare generali in una liberalizzazione del mercato, o è giusto tornare all'economia piccola dell'Italia, che nel senso che se dovessimo porre dei dazi, no? All'estero, per esempio, Marco, ma secondo te, io ti faccio una domanda: se metti i dazi, cioè, gli altri mercati, chiudi i mercati dei capitali, metti le assicurazioni con i fondi in percentuale a ciò che si importa e si esporta, perché funziona così in un'economia regolamentata, a quel punto con i depositi in fruttiferi rispetto ai corrispettivi valutari, secondo te si sta meglio? C'è più lavoro in Italia o meno? Perché molti dicono che da quel punto di vista ce n'è di più, perché consumiamo solo la roba che produciamo noi. Consumiamo solo la roba che produciamo noi, oppure ci troviamo nelle condizioni di non avere molta roba che consumiamo. Uno, due, vedere alzare i costi della produzione. Tre, vedere diminuire il potere di acquisto dei redditi. Ecco, questa è la mia risposta. Secca, proprio brutale. Dopodiché può avvenire, sì, può avvenire, perché il pendolo della storia vede dei periodi in cui, dopo la globalizzazione, di fronte ad alcune bolle che scoppiano, si torna indietro. Al 1914 c'era sui volumi del PIL mondiale, il commercio mondiale era salito a percentuali mai conosciute prima, poi le grandi imperi nazionalisti hanno fatto saltare tutto per aria, siamo tornati indietro alle economie corporative, autarchiche e nazionali. Abbiamo pagato un bel prezzo, mi pare, però ce lo siamo dimenticati, e adesso di fronte alla globalizzazione, che diciamo che ci ha tutti impoveriti, non è vero niente, però non è possibile ragionare su questo, vogliamo ritornare a dazi, depositi in fruttiferi, eccetera eccetera. Essendo noi un paese forte di che cosa? Abbiamo commodities? No. Abbiamo materie prime? No. Siamo un paese trasformatore? Sì. E a basso valore aggiunto, purtroppo, nelle nostre trasformazioni. Io ci penserei, però non siamo noi a decidere. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta. Conti della Belva. E eccoci qua tornati in studio, i compari dei Conti della Belva, Oscar, Mario, Carlo Alberto. Sentiamo ancora Francesco da Roma e poi andiamo al tema. Cosa sono i PIR? A cosa servono? A chi possono convenire? Che rischi avranno? Stiamo sempre parlando di risparmio. Ma Francesco da Roma invece su cosa vuole intervenire? Francesco. Buongiorno Giannino. Sì. È su un dato di fatto sul quale il mondo occidentale e l'Europa hanno fallito. Cioè, abbiamo esportato capitali e va bene, abbiamo esportato idee, abbiamo esportato catene di montaggio, ma non siamo stati capaci di esportare il rispetto dei diritti civili. Quando il presidente della Cina cita Dickens, dovrebbe ricordarsi che Dickens non solo esaltava l'iniziativa privata, ma era anche un filantropo e si occupava delle condizioni disagiate delle classi operaie. Sì. Non siamo riusciti ad esportare il rispetto del lavoro, anche del lavoro intellettuale, delle nostre stesse invenzioni. Però Francesco, è ovvio che la Cina è un regime partunico, ma la domanda, negli ultimi 20 anni, non 20 secoli, 20 anni, il potere d'acquisto, il benessere medio e scendendo nella piramide dei redditi, il rischio di morire per fame che riguardava centinaia di milioni di contadini cinesi, è migliorato come mai nella storia dei secoli recenti. Non sto parlando di 2000 anni fa, quando la Cina era al vertice del PIL, del reddito medio mondiale, ma è migliorato in maniera terrificante o no? Sì, è migliorato, ma anche perché noi nel Novecento abbiamo forzato l'isolazionismo dei cinesi, siamo andati giustamente contro la rivolta dei boxer. domanda della globalizzazione è tutto qua, perché sai, chi ha creduto di esportare il pluripartitismo, i concetti di libertà occidentale, di democrazia occidentale, anche sulla punta delle baionette, ha fallito, come tutte le cose che si esportano sulla punta delle baionette. Il problema è che bisognerebbe, secondo me, ragionare sui tempi lunghi, se non voglio parlare dei cicli di Kuznets e così via, però sui tempi lunghi, gli effetti della globalizzazione 2001, l'ingresso della Cina nel WTO, sui tempi brevi ha prodotto effetti incredibilmente d'impatto, e secondo me quelli positivi sono molto più di quelli negativi. La penso così perché penso che ci siano dei numeri che lo dicano, e questo riguarda il benessere e la vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, come mai prima in un arco temporale così ristretto. Questa è la mia opinione, del tutto personale. Capisco che il vento sta andando da un'altra parte, il vento dice che invece torniamo a chiuderci su noi stessi, io diffido molto della politica, sono vecchio e so che i voti si prendono in questo modo quanto più si urla, poi le conseguenze sono di chi è debole e chi paga. Questo è quello che purtroppo penso io. Allora, domanda, caro Alberto e Mario, e mi aspetto che interveniate, perché io sono molto scettico su questa cosa dei PIR. Allora, chi lo dici? Cosa sono i PIR? A cosa servono e a chi convengono? Noi approfittiamo del fatto che questa settimana ha scritto un post molto dettagliato, comprensibile a chiunque, sulle caratteristiche di questo nuovo strumento, i vantaggi dal punto di vista fiscale, le finalità, portare soldi anche del piccolo risparmiatore alle imprese italiane e i rischi. Una persona che invitiamo spesso, Raffaele Zenti, che è tra i fondatori di Advice Only, responsabile del Financial Strategies Group. Grazie Raffaele di essere con noi oggi. Buongiorno e grazie a voi. Grazie. Allora, a voi. Tentiamo di spiegare prima che cosa sono questi PIR e poi andiamo a vedere costi e rischi. Allora, i PIR sono letteralmente i piani individuali di risparmio, quindi si tratta di un veicolo, uno scatolotto giuridico. Può essere un fondo comune, una gestione patrimoniale, una unit link, cioè diciamo si può attingere dall'ampia gamma di strumenti giuridici ammissibili per fare risparmio. Può essere anche un banale conto titoli, cioè niente di... Anche un banale conto titoli, assolutamente sì, assolutamente sì. Che hanno un diciamo, nel quale si infilano degli investimenti. Investimenti che hanno un obiettivo specifico. L'obiettivo è quello di diciamo molto, molto nobile, molto alto, che è quello di rafforzare il capitale delle imprese italiane, in particolare con un occhio a quelle di dimensione medio-medie, medio-piccolo, e al contempo però di consentire ai risparmiatori di investire nel proprio paese, una cosa che ci siamo detti tante volte che sarebbe bello. Quindi l'idea è tu risparmiatore fai questo tipo di investimento in azioni, obbligazioni di aziende italiane e le infili in questo contenitore. Contenitore che diciamo che deve soddisfare alcuni requisiti. Ci sono dei vincoli, quindi sono dei vincoli sia su come è fatto il portafoglio, sia su come si deve comportare l'investitore. Siccome è fatto il portafoglio, vediamo di non stordire con i numeri. Sì, perché sono diversi. Però diciamo ci deve essere almeno 70% di titoli azionari, italiani, azionari o obbligazionari. Il 30% invece può essere sostanzialmente investito dove si vuole. E poi di questo 70% di titoli italiani, almeno il 21% deve essere investito in società diciamo che non sono presenti nell'indice di borsa FTSE MIB, quindi su società effettivamente che non sono proprio sotto i riflettori. Quindi l'idea è proprio quella di andare a stimolare l'investimento. E questi sono i vincoli di portafoglio, quindi tutto sommato abbastanza semplice. Bisogna investire essenzialmente in aziende italiane, finanziare aziende italiane. Poi ci sono i vincoli per gli investitori, che sono molto semplici. Bisogna stare investiti in questo veicolo per almeno 5 anni. Aspetta, però, il 70% iniziale di quegli strumenti, cioè 70% degli strumenti finanziari sono aziende quotate? Possono anche non essere quotate. No, possono anche non essere quotate. Diciamo che ci sono anche delle, come dire, considerazioni pratiche. Non è vero che sono diciamo, il mondo del risparmio gestito si sta muovendo per accogliere i PIR, lanciando soprattutto dei fondi comuni. Quindi l'onere di comprare, andare insomma, la rude pratica di mercato è lasciata ai professionisti. Aha. Però diciamo la norma lascia ampio spazio quindi possono essere azioni quotate sul listino principale, okay, sui listini secondari come Lime, possono essere obbligazioni, non ci sono vincoli. Perfetto. Ci sono dei vincoli per l'investitore molto importanti, che sono rimanere investiti per almeno 5 anni, investire al massimo 30.000 euro l'anno in questo veicolo, per un totale di 150.000 euro totali. Massimo, no? Qual è il vantaggio? E qual è, cosa ci si porta a casa? Una bella esenzione da tassazione dei redditi. Quindi qui non si pagano fondamentalmente le tasse, che non è poco. Non è poco. E, quindi, che dire di questa cosa qua? È sicuramente un'iniziativa positiva. È positiva. Bisogna stare un po' attenti, ecco, cioè non, nel senso che comunque si tratta chiaramente si tratterà di portafogli che siano azionari o che siano obbligazionari, che hanno un rischio Italia fortissimo, quindi se ne è parlato prima di diversificazione, qualunque portafoglio deve essere ragionevolmente diversificato, quindi non bisogna farsi cogliere dall'emotività, gli italiani sono molto sensibili all'esenzione fiscale, quando si parla di tasse l'italiano medio non capisce più niente, quindi bisogna essere razionali e evitare di riempirsi il portafoglio di questi oggetti che sono sì convenienti, possono essere anche interessanti come da un punto di vista finanziario, però insomma bisogna andarci a usare un equilibrio, andarci un po' col bilancino. Bisogna stare attenti ai rischi, nel senso che anche qui va bene l'esenzione fiscale, ma magari uno si trova un portafoglio completamente, cioè di azionario Italia, piccole aziende, magari molte non quotate, comunque estremamente illiquide, quindi con relativamente poca informazione, magari più volatili, cioè, insomma, bisogna starci un po' attenti. E poi, come sempre, i costi, quindi rischi, costi che influiscono in maniera importante sulle performance di un portafoglio. So che ci sono diverse società di gestione del risparmio che si stanno muovendo con dei prodotti ben fatti, onesti, sono sicuro che altre si staranno muovendo, si muoveranno in futuro cercando di... Io ne ho visti sia Anima, Pioneer, Kairos, tutte sono pronte quasi. Si stanno muovendo, sono pronte, sono sulla linea di partenza. Io tra i rischi però ci metto anche una cosa veramente il cui vincolo non riesco a capire, perché chi per caso dovesse ritirare prima del lockout temporale ci paga pure gli interessi sopra, oltre a pagarci le tasse. È una roba, può capitare nell'arco dell'orizzonte di 5 anni a chiunque. Mi sembra una pistola alla tempia una cosa di questo genere, no Raffaele? Sì, certo, voglio dire, forse è cartesiana come cosa. Io ti do l'esenzione alle tasse, tu fai furbo, le paghi e poi ti paghi anche gli oneri di mora, però effettivamente sì, è comunque un rischio, ecco, bisogna starci, questa è una delle cose alle quali stare estremamente attenti, quindi non farsi cogliere dall'entusiasmo, ma valutare questa iniziativa per quello che è, quindi stando molto attenti ai rischi, tra i quali includiamo anche questo, ai costi, guardate la documentazione che viene sottoposta ai risparmiatori quando si fa un investimento, e poi anche è abbastanza ovvio quello dell'orizzonte temporale, però qui bisogna stare investiti almeno 5 anni, cioè, quindi non è che dopo 2 anni se il fondo va male o la GP va male uno deve, esatto. si può come dire chiamare fuori più che tanto, no, è un prodotto per investitori che sanno sopportare il rischio e lo sanno anche sopportare con pazienza per un periodo di tempo abbastanza lungo. Beh, comunque Mario. Raffaele, tu hai scritto nel tuo pezzo, che è veramente molto ben fatto, almeno questa è la mia opinione, grazie, che figurati, c'è un problema di illiquidità, giustamente, no? Quindi abbiamo su questo strumento due problemi di base, che sono la potenziale illiquidità dell'investimento, visto che stiamo investendo su fondi che a loro volta trattano società non quotate, strumenti non quotati, eccetera, e l'altro è il discorso della diversificazione, perché avendo questo peso così rilevante dell'Italia sullo strumento bisogna fare veramente attenzione. Ecco perché, e questa più che una domanda a Raffaele, una mia constatazione, poi Raffaele mi dirà la sua, è importante, visto che Raffaele prima parlava del fatto che gli italiani, quando si parla di tasse, non capiscono più nulla e si tuffano a pesce. Allora, voi potete accantonare in un PIR 30.000 euro annui per un massimo di 5 anni. Fate questo calcolo relativamente a tutto l'insieme del vostro risparmio impiegato, al tipo di strumenti di cui voi disponete attualmente e alla loro liquidità. Perché dico questo? Perché se voi avete un piccolo patrimonio e lo mettete tutto nel PIR a 30.000 euro annui per sfruttare il beneficio fiscale, perché il beneficio fiscale diventa la vostra unica stella polare, vi fate male. Se invece decidete, bene, io metto nell'illiquido Rischio Italia, piccole e medie imprese, eccetera, eccetera, una piccola frazione, un 5%, qualcosa del genere, del mio risparmio, del mio patrimonio complessivo, allora forse posso portare a casa qualcosa di interessante. Io però temo, come diceva Raffaele, che siccome la considerazione dell'esenzione fiscale farà premio su tutto, altro noi che vedremo 5%, gente sì. che si allontanerà dalla diversificazione di portafoglio e si schianterà nei PIR. Cosa pensi, Raffaele, di questa? Sono troppo pessimista come al solito? No. Temo che tu sia profetico. Ed è per questo che noi abbiamo iniziato a parlarne, perché noi dobbiamo indurre la gente a ragionarci sopra, altrimenti poi si vengono a lamentare. Mette che c'è un'esplosione, un picco terrificante di un evento imprevedibile sul Rischio Italia, boom, sei concentrato sull'Italia, la prendi giù e così via. Quindi no, capirai Raffaele che al di là del spiegare le cose tecniche, per noi c'è anche il compito come Radio 24 di dire state molto attenti, che non significa diffidare, però capite bene che questa roba si deve applicare a un parte X del vostro, altrimenti c'è un rischio un po' troppo elevato. Oscar, se noi riuscissimo nel nostro piccolo a far passare il discorso che non tutte le uova vanno messe nello stesso paniere e che bisogna diversificare, che è un concetto, di una banalità Alberto, disarmante, però... senza bisogno di commissioni, tabacci e quant'altro, esatto. No? Ma magari un piccolo servizio pubblico saremmo anche riusciti a farlo. Intanto, grazie a Raffaele Zente a quello che fa, e noi tra un minuto andiamo con Udo Gumpel a tornare sul tema Trump e l'Europa. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Cari miei, Fellini e Nino Rota, ma la politica a volte supera e batte anche i film dell'onirico più spinto. E devo dire la verità, io tutto mi sarei aspettato tranne di vedere il prossimo ambasciatore americano designato da il neoeletto presidente della Casa Bianca, che ha passato una prima settimana di fulmicotonici orders firmati e sottoscritti, sta mantenendo tutti gli impegni in campagna elettorale, altro che questo è diventato il problema, ma non mi sarei aspettato di vedere un ambasciatore dell'Unione Europea designato dire bah, io già mi sono molto divertito in un incarico tanti anni fa in cui ho dato la spallata a un'unione, era l'Unione Sovietica, credo di dover fare altrettanto adesso con l'Unione Europea, magari tra 18 mesi non c'è più. Ecco, questo è il prossimo ambasciatore all'Unione Europea, e dice l'Unione Europea è tutta sbagliata, l'euro è tutto sbagliato, è tutta guida tedesca, non cioè, sembra, devo dire, tra coloro che oggi si riuniscono nella piazza romana dicendo più o meno le stesse cose. E allora ci siamo chiesti, sentiamo il nostro amico Udo Gumpel che ci dia il termometro di come in Germania i media e la politica stanno vivendo questo cambio di passo radicale degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea, dell'euro, ma insomma della leadership tedesca data a questo processo in tutti questi anni. Che impatto c'è nel vostro paese a queste parole dell'amministrazione americana? Udo, grazie di essere con noi innanzitutto. Ciao Oscar. No, l'impatto è fortissimo. Fuori dubbio la Germania ha incassato un colpo durissimo, però sta cominciando a prevalere la linea del rilancio. Allora, dato che il mondo degli economisti, insomma, quel 99,9% è convinto che questa politica dell'autarchia, che ricorda molto il fascismo e il comunismo sovietico, ovvero comprare prodotti nazionali per mantenere l'occupazione fittizia a casa propria, e contro il commercio internazionale, lo scambio libero, che era la bandiera degli Stati Uniti degli ultimi 200 anni, grosso modo, che questa è una politica che prima o poi fallirà. Però, c'è un però, a primo effetto può avere anche effetti positivi per gli Stati Uniti, e portare una emulazione da Racca sul Mulino ai piccoli trampisti di casa nostra in Europa, sì, non solo sì, in Italia. Questo è un effetto devastante e naturalmente dobbiamo accettare che il fatto che per i prossimi 4 anni gli Stati Uniti non saranno più la guida del mondo libero, democratico, degli stati di diritto, perché quello che sta combinando anche col muro, con le sue dichiarazioni, è veramente al di fuori, non del political correct, è al di fuori dei diritti umani, è una cioè, dovremmo occuparci dei tempi di Trump ad Atlanta, quando lui fece i casinò, quali erano le sue frequentazioni, ovvero secondo me per molte delle aziende di Trump scatterebbe assolutamente il divieto di partecipazione ai concorsi pubblici per le sue pessime frequentazioni. Sarebbe un prefetto italiano non avrebbe nessun dubbio di escluderlo per le sue frequentazioni, per i contatti, per le società con certi determinati tipi, parliamoci chiari, con mafiosi americani, no? Che circolavano là. Insomma, questo signore che ha avuto una Però questo signore ha eletto, no? Quindi non è certo, scelto con le manette che lo fa. Caro mio, quindi il problema è eletto, adesso come si fa? No, ma sono d'accordo, ma non essere eletto non è un criterio, no? No, ho capito. Ha avuto 43% dei tedeschi nelle elezioni del marzo del 33, dunque anche Hitler era eletto, allora dobbiamo cretino criminale che no, viene eletto. No, però se mi parti col paragone Hitler, capisci che ti stiamo disegnando i nostri ascoltatori. Le parole dell'ambasciatore americano, la risposta è: consideriamo l'America il Terzo Reich. Io a questo punto... No, ma naturalmente lo stanno facendo, parliamoci chiaro, lo stanno facendo. Allora, la unica risposta è quello che io ho pensato... E quello che si sta discutendo, quello che io capto dagli umori in Germania, sì, è il rilancio. E il rilancio anche lavorando sui difetti della politica tedesca e che hanno minato in qualche parte la solidarietà europea e mettendosi sempre nei panni anche degli altri. Io credo che la Germania deve fare un grande sforzo in questa politica. Può diventare il vero leader dell'Europa. Ma che se bello sentire. Se mette da parte in alcuni momenti la sua tircheria da ragioniere, dico Uncle Scrooge, ma di vedere in ogni cifra che cosa mi comporta domani mattina. Ricordo che quando avete fatto l'unificazione con i colleghi dell'Est, non avete ragionato da contabili, avete ragionato da leadership politica, con un grande atto di coraggio. È stato Kohl che ha detto ai ragionieri di casa loro: no, si fa come dico io. Ma è stato il popolo tedesco che ha fatto una scelta di leadership culturale come sa fare dei secoli. Allora, non è il caso di nel 2017, anche... però non nel 2034. Non ci credo. Non è il caso che... No, ricordiamoci però anche chi era all'epoca contrario all'ingresso della Germania dell'Est. Esatto. Chi non li voleva sostenere. Esatto, da Andreotti a Mitterrand all'Andraccio. È così. Era purtroppo quella sinistra sindacalizzata che temeva di perdere qualche privilegio della classe operaia dell'Ovest a spese di quelli dell'Est. Dunque era una specie di lotta tra poveri, no? Dove l'SPD alla fine ha perso, perché... alla fine tutta la Germania è diventata più ricca, più benestante e anche i poveri ne hanno avuto dei vantaggi. Dunque noi dobbiamo essere forti delle convinzioni democratiche. Credo che la risposta che la Merkel ha data a Trump ha detto: noi abbiamo valori in comune, la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto. Su questa base facciamo qualsiasi accordo. Trump ha bozzato perché lui non sa manco cos'è, no? Queste cose non lo hanno mai interessato. Poi anche, posso dire, parliamo delle macchine, degli automobili. E ragazzi, nella Germania comunista, mi sembra sempre un ottimo esempio, la gente era costretta a comprare Trabi e Wartburg, che erano le macchine del regime, altri non c'erano. Così c'era la piena occupazione nella Germania comunista e 5 anni di attesa per avere una macchina di plastica, che oggi è un oggetto, diciamo, di culto, però non la voleva nessuno. Appena si è liberato l'economia, di cui gli americani erano sempre fieri, loro volevano comprare i prodotti migliori, anche prodotti americani. Dunque io credo che quando i poveri americani che hanno votato Trump per farsi proteggere il popolo di lavoro capiranno che i dazi aumentano enormemente i prezzi di prima necessità loro negli Stati Uniti, perché se sono prodotti negli Stati Uniti costano il triplo. Allora, chi è il primo colpito sono proprio i suoi poveri, però l'effetto, diciamo, wishful thinking, ovvero le nuvole, no? può durare di sicuro uno o due anni. Allora è veramente un forte richiamo ai leader europei, in primis addirittura alla responsabilità tedesca, di prendere in mano veramente una leadership, per esempio. Però vogliamo vederlo nel dibattito per la campagna elettorale, Udo, questa cosa non è ancora emersa, Ma è un pochettino è emersa, perché da un lato la Germania, tutti, sai, qui in Italia delle volte si esagera con l'effetto dell'AfD, dei nazionalisti, che tra i quali alcuni sono veramente neonazisti, no? Come perché questo usa un linguaggio da Goebbels perfettamente identico, uguale, e sputa sulla Shoah, sui monumenti che ricordano, insomma, c'ha un linguaggio che è assolutamente inaccettabile, anzi gli hanno addirittura espresso divieto di accesso ai monumenti e dei lager in Germania, no? Pensate che non è mai più capitato a un politico tedesco di non poter metterci piede per non offendere le vittime, no? E però questo partito rappresenta il 10% dell'elettorato, dunque il 90% dei tedeschi vota partiti che hanno un'idea ben diversa da quella, dunque cerchiamo anche di ragionare sulle cifre, non è così complicato. No. 10%, il problema, 90%, il problema, no? È farlo nei tempi che siano coerenti a tempi impetuosi dell'accelerazione del fronte populista, che è fatto a due livelli: dialoghi solo tra grandi potenze non più multilaterali, quindi Stati Uniti con Putin e Cina, e dall'altra parte l'esplosione di tutte le reti multilaterali sottostanti, quindi per noi europei l'Unione Europea e l'euro. I tempi di questi messaggi oramai sono come quelli delle pulsazioni di un cuore che in fibrillazione atriale, ecco. E ma se la politica non ha tempi altrettanto rapidi dall'altra volta, No? Tu devi erigere il muro cinese con gli americani, non devi più condividere nessuna informazione dei servizi, uno, capito? Io non credo che i nostri ordinamenti siano pronti a fare questo. Non servono ordinamento, queste sono pratiche dei servizi di scambio di informazioni ad un certo livello. Noi sappiamo che i servizi, per esempio americani, CIA, NSA, sono molto dalla nostra parte e sono molto critici con il signor Trump, perché vedono lui il cavallo di Troia all'interno del loro sistema americano. Però comunque bisogna limitare l'accesso loro ai nostri dati. E se loro vogliono fare la guerra commerciale, chi la perde una guerra commerciale sono quei paesi che non hanno i prodotti da offrire. Dunque, cioè, io credo che gli americani stessi si mettono la zappa sui piedi, però di questo sono convinti il 99% degli economisti, tranne quelli comunque, che sono assoldati dalla Lega Nord. Io confido che trovato, siccome ha messo una squadra di gente di primo livello, cioè il segretario del Dipartimento di Stato. No, il segretario del Dipartimento di Stato, per chiunque lo conosca, sa che non è un pazzo, è un grande dealer di accordi nell'oil and gas. Cioè, detto tutto questo, vedremo, perché stai disegnando uno scenario da guerra vera, sa come devo dirti. Io su questo spero di no. Una cosa mi è chiara, che i popoli hanno già dimenticato cos'è l'effetto del protezionismo e dei conflitti. Questo lo sì, hanno dimenticato integralmente. Sì. E perché classi dirigenti irresponsabili, pur di abbeccare i voti, naturalmente cavalcolano il cavallo delle quattro cavalieri dell'Apocalisse, fatti sull'oblio, e quindi ripagheremo il prezzo. Speriamo di no. Grazie Udo Gumpel, torniamo tra un minuto. Della belva. Dalché la cosa che si scatta. Eccoci qua. Ci risiamo? Siamo tornati in diretta? Avete sentito? Volava qualche parolaccia in studio, ma spero che, ecco, i nostri tecnici sono fenomenali. No, non volava parolaccia tra noi, stavamo commentando alcune situazioni. Caro Alberto, dovete sapere che legge delle pubblicazioni celle ogni tanto, no? Metto caffè al colonnello Buttiglione quando passa e però ricordate. Vabbè. Detto tutto questo, Renato Cifarelli, sei tornato dalla Turchia, sei ancora un uomo libero. Sì, mi hanno lasciato andare, guarda. No, perché nel frattempo... No, è arrivata la May oggi in Turchia, per cui vi siete dati il cambio. Dai, sì, ma sai, Ma tu eri un periodo in cui stanno incontrando persone ad altissimo livello. Sì, sì. Beh, esatto. Comunque ormai hanno definito i termini della riforma costituzionale, adesso c'è il referendum, però tutti i poteri Erdogan per 20 anni almeno, ma tutti i poteri davvero, cari ascoltatori, cioè il Parlamento non conta più niente, è tutto nelle mani del presidente, quindi il finto golpe è servito a questo, a incarcerare l'opposizione, i giornalisti, i curdi, e a far in Parlamento ottenere l'ok a una riforma incredibile che, non ho nessun dubbio, al referendum guarda sarà approvato dai turchi. Ma detto tutto questo, i tuoi affari invece lì come vanno? Bene o ci no, sono io imparti? ero là per lavoro, quindi per noi Turchia è un mercato abbastanza importante. Anche se i segni del rallentamento sono fortissimi negli indicatori macro della Turchia negli ultimi mesi. Noi, lavorando nell'agricoltura, l'agricoltura è sempre esatto. Un po' un settore, diciamo, borderline rispetto all'andamento generale dell'economia. No, e poi perché li conta molto. Beh, intanto c'è tutto il discorso del tempo, che per noi è sempre un po' importante. Tempo atmosferico intendo, certo. Perché l'agricoltura, ahimè, è legata anche al tempo atmosferico. Certo. Vabbè, allora dai, non ti voglio far deviare dalla Turchia. Si può fare questa settimana? Che cosa ce lo dedico? Io, siccome oggi abbiamo parlato tutti, io non ero in studio, ma sai che mi considero parte, certo, del team, sei quindi parte, abbiamo, sei. Abbiamo parlato dei massimi sistemi. Volevo tornare un po' coi piedi per terra, no? Perché poi tutte le volte parliamo sempre di investimenti, tutte queste cose qua, e oggi invece ho preso ispirazione dalla lettura del giornale locale e mi sono venute alla mano un paio di notizie che dicono poi del fatto che noi parliamo dei massimi sistemi, poi in effetti il San Matteo di Pavia, che è uno dei più importanti ospedali anche a livello di ricerca in Alta Italia da tanti anni, ha fatto tutta una serie di reparti nuovi, super moderni, costruiti, eccetera, e credo che la notizia che esce oggi sia l'esatta definizione di come lavoriamo in Italia. Cioè hanno fatto tutti i reparti nuovi, si sono dimenticati di fare l'accesso pedonale. Cioè ci si arriva solo in macchina, e in macchina no, ma dai, non si davvero? Può entrare. No, te lo giuro. Cioè, se vuoi ti mando l'articolo del giornale. No, non ci credo, cioè, purtroppo. Non hanno fatto, cioè, hanno progettato, hanno speso centinaia di milioni naturalmente, perché immaginati cosa vuol dire rifare tutta l'area di un ospedale come San Matteo, tutta nuova, hanno fatto le torri, tutto modernissimo, eccetera. Si sono dimenticati solo l'ingresso pedonale. Quindi chi entra, e stiamo parlando di un ospedale, quindi chi entra non è esattamente lo sportivo che molto spesso che va a fare running, insomma, cioè, parliamo anche di persone che probabilmente hanno problemi di salute, non ha l'accesso pedonale, quindi si deve districare in mezzo alle macchine. Invece per Avigevano hanno costruito un palazzetto dello sport costato 13 milioni che è fermo da quando l'hanno costruito, credo siano 4 o 5 anni, e non ha ancora l'agibilità dei vigili del fuoco perché è stato progettato male. Quindi ogni volta che fanno una manifestazione firma una cosa il sindaco che dice sotto la mia responsabilità lo facciamo, anche se succede qualcosa sono fatti miei. Cioè questo è poi come funziona il nostro paese, purtroppo. No, questo è il non si può fare. Questo no? Non perché si può fare. Noi ci impegniamo, ed è assolutamente indispensabile, a far capire alla gente come non buttare via i soldi quando investe. Però poi i soldi che noi paghiamo di tasse vanno a finire in queste cose qua. Guarda, io oggi ho scritto un commento sul Mattino su un'altra vicenda che conferma a volte che anche dove miglioriamo c'è sempre qualcuno che vuole frenare. Scavi di Pompei erano quelli del luglio 2015, tutto il mondo deride l'Italia perché lasciamo fuori i visitatori senza averli preavvisati, perché gli scavi chiusi sono per assemblee sindacali e non li abbiamo neanche avvisati. C'è questo sovrintendente Massimo Osanna che arriva con 70 sovrintendenti che si dicono scandalizzati dal suo nome, si mette ventre a terra, porta a casa con progetti finalmente ben fatti 159 milioni dall'Unione Europea, 40 milioni dal CIPE, nel 2016 accelera tutti i lavori, entro la fine di quest'anno finirà la messa in sicurezza di tutti gli scavi di Pompei. Il muro che è caduto ieri era in una delle aree dove gli interventi sono bloccati. Perché? Perché c'è un'impugnativa al TAR. E cosa succede? I sindacati fanno l'esposto ai carabinieri, perché lui, di fronte a una mini assemblea sindacale, ha tenuto, come la legge gli impone, aperti gli scavi col personale che lavorava, e loro li hanno denunciati ai carabinieri. Ecco, chi non capisce queste cose, chi fa progetti come quelli di cui ci hai parlato tu, dal palazzetto dello sport ai reparti nuovi eccetera eccetera, per me è la vecchia Italia. Non so chi voti, ma io voto solo perché riusciamo a cambiare la testa o a tagliare un po' di teste di quelli là. Grazie Renato, ci farei le grazie a tutti, appuntamento al sabato prossimo, e con me però sabato e lunedì mattina alle 8:20 con Alessandro Milano. Attenti a noi due, buon ascolto su Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio Filippo.